40. Quebec era una grande città scolpita sulle rocce. Un castello da favole dominava il fiume, le guglie di Nostra Signora, le case massicce nel recinto delle mura. Esther lesse il nome, scritto a caratteri d'oro sulla prua della nave. Adamant. A confronto di quel vascello enorme, gigante con la pancia in acqua, il brigantino che l'aveva raccolta a Montreal era un folletto del fiume. Erano arrivate il giorno prima, sane e salve, anche se zia Nancy era un'altra persona. Le guance scavate, gli occhi gonfi, il viso intrappolato in una rete di graffi. Le bambine parevano animali sfuggiti a una trappola dopo giorni di lotta. Il padre le aveva accolte lodando Dio, eppure era il diavolo che doveva ringraziare. Esther ignorava il proprio aspetto. Non aveva trovato uno specchio dove guardarsi, il tempo di fare un bagno caldo, mangiare, dormire poche ore e già urgeva la nuova partenza. S'era aspettato fin troppo, dicevano i cambusieri al porto di Quebec. Bisognava spicciarsi, evitare che ghiaccio e tempeste bloccassero il fiume. Parlavano di Londra e intanto caricavano. Rispondevano Londra ai passanti curiosi. Il nome della capitale affollava i discorsi, ronzava sulle teste. Era il ritornello di qualunque faccenda. Londra. Impossibile, pensava Esther. Londra era di là dell'oceano. Si impiegavano mesi per arrivarci. Uno di quei viaggi che si affrontano una volta nella vita, per cercare fortuna. Adamant. Impresse il nome nella memoria, mentre saliva a bordo sui passi del padre che conduceva per mano le due sorelle. Si girò. Il gran diavolo era ai piedi della rampa, con un sacco caricato sulla schiena, e le rivolse un'occhiata. Esther si girò di scatto per nascondere il viso. Le guance avvamparono.